prima edizione. Le 6, 13 minuti e 24 secondi. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Un paio di notizie prima di sentire che cosa succede su strade e autostrade. Innanzitutto, ieri il fatto che il presidente americano Barack Obama ha ricevuto l'ambasciatore italiano a Washington, Claudio Bisognero, il nuovo ambasciatore italiano a Washington, che succede all'attuale ministro degli esteri Giulio Terzi. Ebbene, arriva ad Obama un grande apprezzamento per Monti, il presidente degli Stati Uniti, parla di forte apprezzamento nei confronti del premier italiano per il suo lavoro nel campo economico e finanziario. L'altra notizia che abbiamo da darvi è una notizia di cronaca, arrivata poco fa, che arriva dalla Guardia di Finanza di Ancona, che in un doppio fondo ricavato in un camion carico di pannelli di fibra che arrivava dalla Grecia e sbarcato nel porto di Ancona, la Guardia di Finanza ha scoperto 27 immigrati clandestini, di cui 21 afghani, 5 marocchini e un uomo proveniente dalla Tunisia. Tra l'altro ci sono anche due minorenni. Adesso la viabilità, ci ritroviamo dopo per un punto sui quotidiani che troviamo oggi in edicola. Prima edizione. Sono le 6, 16 minuti e 12 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Bene, andiamo a dare un'occhiata a che cosa troviamo sulle prime pagine dei quotidiani oggi, sulle prime pagine dei principali quotidiani. E inizierei oggi dal Sole 24 Ore, perché è forse quello che presenta il quadro più ampio in merito alle liberalizzazioni, ossia quello che dovrebbe essere contenuto nel decreto. Ci dedica addirittura uno speciale nelle prime pagine. E energia, polizze e pedaggi, ecco cosa cambia, questo è il titolo. Entro sei mesi separazione societaria di Snam Rete Gas dall'Eni, il premier che dice nessun piano di cessione aziendale. Si va verso l'addio alle tariffe dei professionisti, RC auto meno cara, assicurazioni auto meno care, nuovi conti correnti base, sconti e orari liberi in farmacia, mentre invece ci sarebbe una retromarcia per quanto riguarda la rete dei carburanti. Commento di prima pagina a firma di Fabrizio Forché, che si intitola La sostanza c'è, ora la guardia alta, e un'analisi di Antonella Olivieri che riguarda Snam Rete Gas ed Eni, e il titolo è Chi paga il conto dello scorporo. Titolo anche per quanto riguarda l'incontro tra Monti e Cameron, Italia solida e affidabile, ora ci sarà la crescita, ed è la missione del primo ministro a Londra. Interessante da segnalare che oggi scrive sul Sole 24 Ore Carlo De Benedetti, un pezzo intitolato Leadership tedesca cercasi, e si parla della miopia della Merkel. La centropagina, titolo forte sull'accordo sul contratto dei bancari, intesa di massima ab sindacati su un aumento medio mensile di 170 euro e attesa oggi la firma. Mussari che dice dalla liquidità BCE effetto positivo sul credito, l'autority cambi criteri. E un commento di Donato Masciandaro, molto se ne è parlato di questo tema, ossia di quanto i criteri patrimoniali richiesti dall'autorità bancaria europea abbiano un impatto negativo sui mercati e sulle banche. Il titolo in effetti di Donato Masciandaro è Se la cura EBA, che è appunto l'autorità bancaria europea, peggiora il male. Questo il quadro dal Sole 24 Ore, che ha anche un titolo naturalmente, come potrete immaginare, sul Fondo Monetario Internazionale, che vuole il fondo anticrisi da 500 miliardi di dollari. E, per quanto riguarda gli altri quotidiani, inizierei oggi dal Fatto Quotidiano per un semplice motivo, perché riporta in merito alla questione delle liberalizzazioni qualcosa che è difficile trovare da altre parti, e apre con questo: disordine pubblico. Perché? Perché il Viminale sarebbe in allarme dopo la rivolta dei tassisti e la protesta dei forconi. Tra l'altro ne parleremo più avanti, naturalmente non dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma dal punto di vista della sanzione vulnerabilità di determinate forme di sciopero con il presidente della commissione appunto sugli scioperi. Comunque il Viminale in allarme, scrive il Fatto Quotidiano, dopo la rivolta dei tassisti e i forconi che bloccano i tiri in Sicilia, domani con il decreto liberalizzazioni si rischia una reazione a catena con proteste in tutta Italia. Scrive il Fatto che già a dicembre il capo della polizia aveva preparato i suoi ad un gennaio caldissimo sul piede di guerra, notai, farmacisti, benzinai, avvocati e negozianti. Questo il Fatto Quotidiano. Il Corriere della Sera apre anche qua sulle liberalizzazioni, gas RC auto, il piano del governo, stretta sui costi delle assicurazioni, orari flessibili per le farmacie, e poi c'è la bozza con le domande di Bruxelles e le risposte dell'Italia. L'editoriale di prima pagina è dedicato al dibattito sulla legge elettorale ed è a firma di Angelo Panebianco. Si parla di ritorno al sistema proporzionale e, come sapete, se ne sta discutendo in queste ore. Le nostalgie fuori luogo è il titolo. In primo piano il Corriere ha anche la lezione di Monti per convincere la City ai mercati, la protesta dei tassisti e i prefetti che pensano alla precettazione, poi, come si dice, su questi temi approfondiremo. Sulla costa il titolo di centropagina è questo: un ritardo di 68 minuti, perché la costa aspettò? E questo è il titolo. Si indaga sui tempi dell'evacuazione, Schettino guardò da uno scoglio la nave che affondava, e il giallo della ragazza moldava che sarebbe stata appunto insieme al comandante. E di taglio basso un pezzo di Massimo Gaggi dedicato alla protesta contro la legge sulla pirateria online americana. L'America grazia per ora i pirati online. Lo sciopero di Wikipedia fa vacillare la legge sui diritti intellettuali in rete. La Repubblica apre sul lavoro. Ecco il piano Fornero, contratto unico, posto garantito dopo 3 anni, e poi si parla anche delle liberalizzazioni, stretta su farmacisti e notai, banche aperte fino alle 22, tra l'altro si parla anche del governo battuto per la prima volta. E Monti che dice, scusate, staneremo tutti gli evasori. Il titolo dedicato al naufragio della Costa Concordia è il seguente: l'inchino della Concordia, stop alle rotte proibite. L'inchiesta si allarga alla tolleranza di armatori e capitanerie. E da segnalare che anche la Repubblica dedica il suo editoriale di prima pagina alla riforma elettorale, il dovere della riforma elettorale, e la firma è quella del direttore Ezio Mauro. Questo il quadro dalla Repubblica, almeno sui temi principali. Naturalmente c'è anche un titolo dedicato all'incontro tra il presidente del Consiglio Mario Monti e Cameron, che dice l'Italia è affidabile. La Stampa decide invece che il titolo sulla Concordia, oggi il tema è proprio quello della donna non registrata nella plancia di comando, il titolo è proprio questo, il giallo della donna non registrata nella plancia di comando, lo racconta il comandante, lo ha raccontato lo stesso Schettino, l'ordinanza del GIP, Schettino guardava da terra la nave affondare. E segnala anche la Stampa l'allarme lanciato dal ministro Clini, che dice la Costa Concordia si può inabissare. È un reportage di Michele Brambilla dalla Costa Serena, che è la nave gemella della Costa Concordia. Sulla Costa Gemella si dribbla la paura. Questo in apertura, poi in realtà il titolo forte di prima pagina è dedicato alle liberalizzazioni. Farmacie e professione si cambia, liberi orari e turni di vendita, dai medici agli avvocati, tariffe abrogate. Ci sono altri dettagli che riguardano non solamente questo, ad esempio il decreto mille proroghe, pensioni a rischio scatta la deroga, scrive la Stampa, e c'è un mini condono ai partiti nel mille proroghe per i manifesti elettorali, cosa sicuramente da segnalare. Franco Bruni, l'economista, firma un editoriale in prima che dice concorrenza non significa meno regole. Questo naturalmente sarà da leggere. E poi c'è anche il tema della legge contro la pirateria online E c'è un pezzo firmato da Gianni Riotta su questo: limiti al web, il vicolo cieco della politica, e gli Oscar che bocciano Terraferma, la pellicola di Crialese esclusa dalla cinquina. L'Italia è ancora fuori. Infine, storia di cronaca: picchiati e malnutriti all'ospizio Sanremo, anziani legati e maltrattati da chi li doveva accudire. 7 arresti. Il Messaggero: liberalizzazioni, ecco il decreto, orari e turni per le farmacie, sconti su RC Auto, taxi verso la precettazione, titolo anche su Monti da Cameron che dice l'Italia è affidabile, commento di prima pagina, editoriale di prima pagina, firma di Paolo Pombeni, chi tratta e chi minaccia, dedicato alle liberalizzazioni. Il titolo sulla costa, anche qua, è dedicato, si parla di questa donna sul ponte con il comandante. E poi la storia che vi abbiamo raccontato ieri, la strage dei ragazzi sul raccordo anulare, un tir che ha travolto un'auto con 5 amici. E si segnala che per gli appassionati di atletica, che si va verso i giochi, come sapete, i giochi olimpici, e Bolt tornerà all'Olimpico di Roma il prossimo 31 maggio. Il fulmine giamaicano correrà come lo scorso anno i 100 metri al Golden Gala allo Stadio Olimpico. Questo per gli appassionati. Per quanto riguarda quello che abbiamo trovato in giro sui siti e i quotidiani esteri, altre notizie da fuori, vogliamo farvi solamente una segnalazione, quella che arriva da ABC News, la quale sostiene che Mitt Romney, e questo potrebbe essere piuttosto pesante per il candidato favorito repubblicano alla nomination alla Casa Bianca, alla corsa alla Casa Bianca, ebbene, sono stati trovati a Romney, a quanto pare, 8 milioni di dollari alle isole Cayman. Questo un quadro naturalmente parziale e generale. Ci fermiamo, ci sentiamo tra poco con il giornale radio. Le 6:36 minuti, anzi le 6:37 minuti in questo momento. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Dunque andiamo a vedere che cosa sta succedendo, a sentire in realtà che cosa sta succedendo sull'isola del Giglio, che cosa sta succedendo sulla vicenda della Costa Concordia. Ci colleghiamo dunque con la nostra Raffaella Calandra, inviata là. Buongiorno Raffaella innanzitutto. Buongiorno Simone, a te e ai nostri ascoltatori. Allora, com'è la giornata? Ieri ci sono state difficoltà dal lato del lavoro, insomma, di chi sta appunto lavorando intorno alla Concordia. Si parla di rischi di inabissamento. Come siamo messi oggi? Oggi siamo messi che proprio in questi minuti, qui sotto il tendone che rappresenta il centro dell'unità di crisi, qui alla porto sull'isola del Giglio, è in corso un po' una riunione, diciamo, tra le varie forze che stanno lavorando intorno alla Concordia per verificare i rilevamenti di oggi, cioè gli eventuali spostamenti di oggi della nave dopo che ieri era stato registrato una leggera rotazione, e quindi stabilire innanzitutto se appunto i soccorritori oggi, dopo l'interruzione per tutta la giornata di ieri, potranno lavorare alla Concordia, alla ricerca appunto dei dispersi, il cui numero è sceso a 21, stabilire questo e stabilire però anche concretamente che fare per cercare di arginare lo spostamento di questa nave che sta proseguendo, avvicinandosi appunto a questa scarpata di 70 metri, che vorrebbe dire l'inabissamento della Concordia, quindi la fine della ricerca di tutti i dispersi, con il problema del carburante che è ancora a bordo. E questo infatti anche oggi è una giornata importante anche sul fronte dello svuotamento del serbatoio. Ieri ci eravamo detti proprio nei giornali radio della mattina, ci avevi raccontato, oggi dovrebbe essere la giornata nella quale si dovrebbe procedere allo svuotamento appunto dei serbatoi. Poi in realtà, Raffaella, appunto tutto si è fermato proprio per uno spostamento della nave, tra l'altro considerevole da quel che ho capito. C'è stata una rotazione, cioè la nave è appoggiata in un equilibrio estremamente precario tra due scogli e quindi per di più oggi arriva nel pomeriggio e ha previsto una mareggiata, quindi sarà la prima vero banco di prova della tenuta anche della nave in questo suo equilibrio, perché con il mare grosso allora bisognerà capire. Questo rotamento insieme allo spostamento che c'era stato qualche giorno prima, diciamo, rappresenta un ulteriore segnale di movimento che preoccupa chiaramente chi sta intervenendo. Sul fronte del carburante le operazioni di svuotamento richiederanno delle settimane, ieri ci hanno detto anche i funzionari di questa società olandese, la Smit, che sta intervenendo, però ieri sono arrivate questa zattera importante, grossa, con tutti quanti il materiale che servirà ad avviare le procedure, e invece appunto hanno soltanto cominciato operazioni, diciamo, preventive di preparazione della zattera, ma nulla è stato ancora possibile cominciare sul fronte proprio delle 21 cisterne, alcune esterne, altre inabissate della Concordia, proprio per via di questo spostamento che chiaramente rende pericoloso intervenire per i soccorritori, cioè c'è un rischio anche per loro. Quindi a breve immaginiamo la fine di questa riunione e si capirà che cosa si riuscirà a fare nella giornata di oggi. Quindi naturalmente restate sintonizzati, perché nel corso della giornata ci torneremo a collegare con la nostra Raffaella Calandra, a partire naturalmente dal giornale radio delle 7 con gli aggiornamenti. Grazie anche per oggi Raffaella e buona giornata. A voi e ai vostri ascoltatori e ai nostri ascoltatori. E noi adesso cambiamo argomento e dedichiamo un'intervista un po' abbastanza lunga al tema del blocco che di fatto sta interessando da quattro giorni il settore dei taxi. Perché? Perché come sapete si sta discutendo di liberalizzazioni, molte segnalazioni ci sono di gente che dagli aeroporti praticamente con i taxi non si riesce a muovere, perché nella sostanza non ce ne sono. Parliamo di questo e non solo di questo. Lo facciamo con Roberto Alesse, che è presidente della Commissione di Garanzia sugli scioperi, al quale diamo il buongiorno. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei e a chi ci ascolta. La ringraziamo per la sveglia, come facciamo sempre con i nostri ospiti. Allora, presidente, innanzitutto ci chiarisca un po' se ha. Io immagino lei abbia sott'occhio la situazione e la stia monitorando, quindi le chiediamo innanzitutto un quadro della situazione. Con riferimento ai taxi. Ma guardi, sì, con riferimento ai taxi, poi verremo anche, e questo lo preannuncio agli ascoltatori, al tema di questo movimento dei forconi, soprattutto dal lato di quelle che sono le competenze di Alesse, che sono le competenze che riguardano i camion, naturalmente non i coltivatori diretti o i pescatori. Allora, presidente, iniziamo a fare un punto sui taxi. Guardi, mi preme intanto dire questo, che quello che è accaduto venerdì scorso in molte città d'Italia e che in parte mi sembra stia ancora accadendo è che noi ci troviamo di fronte ad una serie di scioperi selvaggi, vale a dire a forme di astensioni collettive dal lavoro che non sono comunicate preventivamente all'autorità di garanzia sugli scioperi. Ecco, a questo proposito io voglio essere chiaro e farmi capire da chi ci ascolta. La legge 146 del 1990 vieta ogni forma di sciopero che non sia riconducibile alla legge stessa. E tanto per essere ancora più chiaro, dico che lo sciopero selvaggio è vietato dalla legge, che impone ad esempio l'obbligo del preavviso, l'obbligo di esperire le cosiddette procedure di raffreddamento e di conciliazione, che impone ad esempio la necessità di evidenziare sempre le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro e così via. Figuriamoci poi se lo sciopero selvaggio, che è illegittimo, non assicura nemmeno le prestazioni minime indispensabili. E su questo bisogna essere molto chiari. Il rispetto della legge è sacro, su questo non si transige, e l'autorità è obbligata a farla rispettare e semmai anche ad azionare tutti i poteri sanzionatori di cui dispone. Mi scusi, da questo lato, dal lato allora che a questo punto mi sembra, presidente, ed è anche una domanda questa per lei, che la violazione della legge dal lato del preavviso ci sia tutta, e dal lato delle prestazioni minime? Ecco, noi venerdì scorso abbiamo preso carta e penna e abbiamo scritto ai prefetti delle città interessate dai blocchi dei taxi per chiedere loro di accertare oggettivamente come siano andati i fatti e se ovviamente sono state assicurate quelle prestazioni minime che attengono ai servizi pubblici essenziali. Ecco, so che i prefetti si stanno adoperando e stanno accertando ovviamente la dinamica dei fatti. E non ha ancora indicazioni di massima da questo lato? Ancora no, ma so che gli accertamenti sono in corso e quindi credo che a breve appunto l'autorità di garanzia sarà messa nella condizione di sapere esattamente come si sono sviluppate le cose. Allora, sono le 6.45, abbiamo una breve pausa per la viabilità, resti con noi e ci ritroviamo subito dopo. Prima edizione. Ebbene, l'avete sentito anche voi, avete sentito questo suono del telefono, era caduta la linea per un attimo con il presidente Alesse, ma mi dicono che già l'abbiamo recuperato grazie a Viola Bottoni che ci sta accompagnando in redazione e che è di massimo supporto. Allora, presidente Alesse, io voglio la prima cosa, voglio capire da lei quali sono, molto brevemente, i suoi poteri, cioè ha potere di intervento su scioperi selvaggi di questo tipo, su casi di violazione della legge come questi, e se sì, si prospetta di esercitarli? Guardi, le ho detto, già avendo scritto ai prefetti significa che l'autorità, come la legge lo stabilisce, ha un forte potere di segnalazione nei confronti delle autorità competenti ad adottare eventualmente le relative ordinanze di precettazione. Poi l'autorità ha anche un suo autonomo potere di sanzionatorio nei confronti delle parti del conflitto, quindi aziende da un lato e organizzazioni sindacali e lavoratori dall'altro, nei cui confronti può azionare sanzioni pecuniarie se accerta la violazione della legge. La legge è la 146 che ha procedimentalizzato l'esercizio del diritto di sciopero. Su questo voglio ancora essere più chiaro. Il diritto di sciopero sia chiaro per tutti, è un diritto sacrosanto, è un diritto riconosciuto e garantito direttamente dalla Costituzione, ma il punto è che questo deve essere esercitato nelle forme e nei modi previsti tassativamente dalla legge. Certo, certo, però Presidente, a me sembra, è chiaro che lei è un giurista, quindi dice aspetto comunque che ci siano le risultanze d'indagine, però a me sembra abbastanza palese che si vada verso sanzioni in questo caso. Sì, anche noi stiamo in realtà valutando la dinamica delle cose e quindi è probabile che se accertiamo delle violazioni palesi nei confronti della legge saremo obbligati a aprire i cosiddetti procedimenti di valutazione ad azionare i nostri poteri nei confronti di quelle parti del conflitto che avessero violato appunto le norme. Sanzioni anche verso singoli? Certo, la legge consente anche questo, certo, è chiaro. In sostanza mi sembra di capire, lei parlava della possibilità di segnalazione, della possibilità di sanzione, probabilmente ci vuole anche un qualcosa di più ampio dal lato della precettazione, qualche potere più ampio dal lato della precettazione, questo mi sembra chiaro. E vorrei chiederle invece in merito a quello che sta succedendo in Sicilia, abbiamo parlato molto di taxi, la Sicilia invece abbiamo questo blocco, per quanto vi compete riguarda solamente i camionisti, che però mi sembra che siano quelli che stanno creando il problema più grosso, perché praticamente non si riesce a far benzina, ma quasi. Guardi, nella seduta del 9 gennaio scorso l'autorità ha valutato regolare lo sciopero degli autotrasportatori in Sicilia perché allo Stato era rispettoso delle regole appunto previste dalla legge 146 e rispettoso del codice di autoregolamentazione del settore, al cui interno peraltro è inserita una disposizione in base alla quale si stabilisce il principio che non si possono effettuare blocchi stradali nel corso degli scioperi programmati. Quello che sta accadendo ora, a mio avviso, è soprattutto una questione di ordine pubblico che le autorità competenti devono valutare attentamente. È ovvio che l'autorità di garanzia farà la sua parte e valuterà se ricorrono le condizioni per sanzionare quelle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero e i soggetti che poi pongono in essere un'astensione irregolare arrecando un danno ai cittadini che non possono in questo modo usufruire dei servizi pubblici essenziali minimi garantiti. Ce lo dica esplicitamente, Presidente, per ritornare ai tassisti, colpirete i tassisti se necessario? Noi stiamo attentamente monitorando la situazione. Se accerteremo le responsabilità non esiteremo a far applicare la legge. Mi consenta di dire un'ultima cosa, io ieri ho dichiarato all'unità che sarebbe utile, a mio avviso, per garantire una maggiore funzionalità del sistema, accrescere ulteriormente il ruolo partecipativo dell'autorità di garanzia sugli scioperi in materia di precettazione. Ecco, su questo, se lei mi consente, vorrei dire questo concetto, che fermo restando il rispetto delle competenze in capo al governo e ai prefetti, ecco, prevedere che le ordinanze di precettazione non si possano adottare senza, perché noi attualmente abbiamo soltanto un potere forte comunque, ma un potere forte di segnalazione, senza, dicevo, il preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'autorità, ecco, questo significherebbe, se questo potere ci fosse dato, realizzare un migliore contemperamento tra il diritto costituzionale di sciopero e quello dei cittadini utenti a poter usufruire dei servizi pubblici essenziali, perché in questo modo, ne sono convinto, l'esercizio del potere di presentazione potrebbe risultare più equilibrato, dal momento che senza, certo, diciamo, il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità, che è organismo terzo e imparziale, non si avrebbero, chiaro, come dire, conseguenze di tipo sanzionatore nei confronti di quelle parti del conflitto che viene una legge. Ecco, guardi che un'ipotesi del genere, io penso che possa trovare il consenso soprattutto dei sindacati, che si avvarrebbero di quelle competenze tecnico-costituzionali dell'autorità nelle varie fasi procedimentali. Chiaro, Presidente, chiarissimo. Dobbiamo chiudere, grazie a Roberto Alesse, Presidente della Commissione di Garanzia sugli scioperi, per essere stato con noi. Vi ricordo anche che a 24 mattino si parlerà anche di questo movimento dei forconi e poi si parlerà di liberalizzazione a 9 in punto. Tutto per Prima Edizione, grazie ancora a Viola Bottoni in redazione, a Peter Bescapè in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia, ci sentiamo tra poco con il GR.